Non siamo riusciti a fare la settimana, a fare coxo spaziale la settimana scorsa perché ho avuto troppi impegni, ci ho provato ma ho fallito miseramente. Ma e dunque sono due settimane che coxo spaziale non va in onda e in queste due settimane sono successe un sacco di cose. È scoppiato un camion in tangenziale spaccando l'autostrada, è crollato un ponte e poi ci sono stati ben due concerti dello Stato Sociale, uno a Pescara a Ferragosto e uno invece a Reggio Emilia il 3 agosto. Siccome ci siamo stati al 3 agosto a Reggio Emilia, vi faccio sentire un loro pezzo dal vivo. Questo brano si chiama Amarsi Male. Matrimonio. mentre invece mi chiedo se vi ricordate Haru Suzuki, la cantante cinese-giapponese che avevamo intervistato qualche tempo fa. Ebbene, abbiamo un pezzo nuovo cantato da lei che è stato composto ben da me, per cui ve lo faccio sentire. Si chiama Objects of My Affection e la musica è di Riccardo, cioè la musica è suonata tutto qua, tutti gli strumenti sono suonati da il nostro caro amico Riccardo Lolli. Eccolo qua, in anteprimissima, prima ancora di essere remixato da Lolli, che dice che c'è qualcosa che non gli quadra ancora. Ecco a voi Haru Suzuki con Object of My Affection. Thank you. spaziale. Invece la cara Francesca Grispello di Simpress 66, è 66 o 44, cavolo non mi ricordo mai, Simpress 44, scusami tanto, mi ha spedito il comunicato stampa di questo jazz festival che c'è a Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Adesso io presumo che non tanti di voi che probabilmente stanno ascoltando Radio Città Fujiko in tangenziale a Bologna stiano andando a Roccella Ionica o comunque in provincia di Reggio Calabria, però non si sa mai. Fatto sta che dal 12 al 22 agosto abbiamo la 38esima edizione di Roccella Jazz Festival 2018, Rumori dei Mediterranei, e questa edizione è un omaggio contiene un omaggio a Frank Zappa. Allora, un omaggio all'Italia, al contributo italiano offerto alla musica di tutto il mondo, al nostro paese come luogo di cultura e accoglienza non solo artistica. E questo è il filo conduttore della 38esima edizione del Roccella Jazz Festival, una delle rassegne più note, amate e apprezzate del jazz internazionale. Appuntamento a Roccella Ionica dal 12 al 22 agosto nelle tradizionali location Porto delle Grazie, Largo Colonne, Rita Levi Montalcini e Teatro al Castello, con il tema chiave dal titolo Italians. Io qualche anno fa avevo partecipato a una mostra invece chiamata Italians, ma questo non ci interessa. Volevo passare dunque che al fatto che adesso naturalmente un po' del festival che trovate sul sito www.roccellajazz.org è già cominciato, ci sono stati già un bel po' di concerti, ma il lunedì, prossimo lunedì 20, sarà invece il giorno tutto dedicato a Frank Zappa, a 25 anni dalla sua scomparsa. Si parte nel pomeriggio con la conferenza Zappa 25 Parfinia, a cura del critico Gian Michele Taormina, di Partinico, proprio come la famiglia Zappa. Seguirà la proiezione del docufilm Rai 1982, L'estate di Frank, di Salvo Cuccia, preceduta da un incontro con Eleonora Cordaro, produttrice del docufilm dedicato al concerto di Zappa sospeso a Palermo nell'82. Il primo concerto sarà Riccardo Fassi Tanchio Band Plays Frank Zappa, un ensemble rodato e di successo, quello del tastierista Riccardo Fassi, che presenterà nuovi arrangiamenti di inediti che abbracciano il periodo 70-90. Con Fassi ci saranno Manlio Maresca, Torquato Sdrucia, Pierpaolo Bisogno, Steve Cantarano e Pietro Iodice. A seguire un musicista iconoclasta come Zappa, Daniele Sepe, con il progetto Direction Zappa. Il sassofonista napoletano, una delle figure più eclettiche e sorprendenti in circolazione, avrà accanto a sé due stelle come Dean Bauman e Hamid Drake, insieme ad Alessandro Morlando, Tommy De Paola e Davide Castigliola. Spettacolare la proposta di martedì 21, un quartetto all-star americano, creatore di un suggestivo soul astrale, il William Parker New Organ Quartet, In the Language of Cosmic Truth. Il poderoso contrabbassista William Parker avrà al fianco Cooper Moore, Hamid Drake e James Brandon Lewis. E in un'edizione caratterizzata dall'italianità non potrà mancare certo Ray Gelato con i suoi Giants, un'autentica icona swing, figura storica amante dell'Italia e della musica americana degli anni 50, popolarissimo entertainer adorato in tutto il mondo. Con lui Danny Marsden, Andy Rogers, Holly Willoughby, Gunther Kermeyer, Manuel Alvarez e Ed Richardson. Dopodiché la serie il 22 si chiude con due concerti diversi ma complementari, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista e Minino Garay, che torna a Roccella dopo 9 anni con la sua Tunga Tunga's Band. Musica da ballo, bla bla bla, eccetera. Il Roccella Jazz Summer Campus sarà un'altra novità di questa edizione, un insieme di attività didattiche e formative di vario tipo, un ciclo di conferenze, proiezioni filmiche e anche mostre. Bene, troverete tutto su questo link www.roccellajazz.org. Se siete in zona Calabria, Reggio Calabria, andate a vedere qualche concerto jazz. Chissà se il nostro amico Willy, grande amante del jazz, sarà a Roccella Ionica. Chi lo sa? Ascoltiamoci del jazz. So it is. Questo era Daniele Sepe con I'm the Slime e questo era per il progetto Direction Vappa che sentirete appunto al Roccella Jazz Festival di Roccella Ionica di cui abbiamo parlato precedentemente. Invece in questi giorni mi è arrivato un po' di musica da un vecchio amico, Michael Koenig, che non vedo dal 1999, no, forse no, dal 2003 anzi. Che ha messo su una nuova band che si chiama Anti-K & Band e vi facciamo ascoltare Rescue Mode. Did I tell you I am wounded? Who shot a hole in my heart? It was my little self. Coxo spaziale, coxo spaziale. coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Anti-KM Band, troverete il link per la loro pagina Facebook come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com. E adesso, come al solito, per queste puntate estive vi facciamo un po' un'infilata di brani per poi salutarci per la fine della nostra ora. Paesaggi spaventosi. La frenisiem i pugni e la velana, mai fede di nuestri con su fui luz, vien più l'usile stello tramontana, fan der rabali bei sume dau cruz. Polei mi trunche la su su devona, a chi ta vien un po' d'un role stieu. La leva fa d'un che sigue flora, san arresticca la mentran de Dieu. Lu giù la nuit brasier su la casaca, ava la moire selene di l'infer. Cuma voulè cagante in pa la flaca, estrouve la il ufu e la cioliner. Se cauca fe sa trouvan en patrouia, en tian cristian dan di mincio di l'un. Alla venite longa fare in ciuio, li bossu vannu se calupete le passe l'una da lang e isaleio per se spragna la ragido sulle, ma lei mi trunge le fiali un leio, monte pura vale sul san miceo, la frenisie mi pugne la velana, ai fede di uno estico e su fui luz. Vien più l'usile stella tramontana, fan dei rabali bei sume d'ogus. Le bucche tiene messe grandi stoli, sei pa la pluie se guardo de flu. Dei viei sepun perdran le una memori, nautei coren per carma la dolupa, me lucus e le nuestre iletaggi, e per il fiu despue e desose se, se li venian respesca lucunaggi, fai niente teste cima le gattei, o lucumurbi, mi pugni e la velano, ai fede di un nuestri qua o su fui luz. Vien più l'usile stella tramontana, fan dei rabali bei zume d'aucus. Lugola un len, nuestre meste de pala, mi di Giulian de che sarto de brama. Io ti lavo a muessa la cigala, escutami, seras le uclavela. I tu esta vie su pessu de leitula, son liaison me che te cava tangao. Son de ta seu dava la citeitula, quand es parti su l'ufron de isusta. Demandava, eitaia ile de peila, che su mestie lei ti va di lan. Quand mon bastique l'architecte gaila, per finquere l'itabe son dava. Moi si zéciam felou, une falipa, au lien de gulé sa tuta connu. Va ben compré tambay, mais c'était Felipa, et nous a divide au son, à que bru. Figurati, la bella promenade, son calou poussé là, des baguettes, qui est de partout, là où là, mais des calades, et l'imeille la slogan se la pécha. Tout soir alors, c'est vase et mes rousettes, sur les bancs au calinia d'Arnagas. Di passe lunghi mai le dindorneta, ti vendran più cagare su luna. Des avre più e ia vien tutte l'uverme, en casse i mes tu se li sta puini. Va sa mi espè, che rorui gas un germe, va visi espà come l'une che li. E is antumba per ti sova la truncia, nelle ste muingan venie l'un mistrao. Na vie tu giù ca ucun che parti in puncia, va pun volta torri e me all'espitao. Anzi Giulia crese mi resta nuna, sabes che si un jamai è sta ruiu, ma in resum li priu della comuna, de condanna li viei su medocu. Pède l'oulin, vous parle à comme une libre. Et vous pouvez dire pas, m'explique à dire l'oufi. Mais faut tu dire, est-ce que si y'en d'un pas libre? Des silagnes, ça vient l'ou grand petit. Sans ce cerca, les yeux d'arnier l'oulia. Vous répondrez que ça compte en courrous. N'a vient pas prendre des carrières à Marcia. N'a vient pas prendre des grands camins poussous. Les six piments d'avant d'une amulaïa, Cadémicien, pintre vos frères Juliet, les beizous stau, que sont per la gueusaïa, que des pilastres au garçon boulanger, et y malie mies loufu yadji d'une ombre, quand la calou l'hiver les val aller, que vint palaï de frères jaoué des membres, tout est goya comme une cuillère d'argent, que mi canne. Tade sa vende pelula, la yo vidir y en a quel ei bon mien, quel ou meilleur tchè de vrai des moulula, es rien respect d'au de dau d'une aglan. Dia que les zoom y avien pudis de saba, pa mena y vit tumba de trei par doué, sa vien lou cuor pu rougi qu'un arabe, et de ma vie d'ai vit enflamme bouès, mais stel ou l'enve co ca fuer lielo, perché via pa mon devo e l'un veni, la ven fa pau e menu esta y bandielo, e lei forza circunde nous. Ben souvenez, quand fait babo la sainte, n'a bien bourré dessus les hommes blancs. Les garcéliens, une fièvre tremblante, et son revenge à corps de vieilles brigands. A de l'oukou, c'est bluno, l'it chafroya, quand à l'esti per nous faille les tourants. Des noix, c'est imao, du égout, les buena voya. Un si bastide, elle est per la tchala. A de si diel, c'est gu, vaut bien la peine. Qu'est des pompi, vous la dièvre, ma sou. Qu'est des mariages, vendeurs, des chairs humaines. A Gundum Gratzi, au foire de la Sazo, coupe à la co, à droite sur la canaille. Allez, fena des mandoun des plaisirs. Et si allez, la marie d'un paysage, yes, blanc, ous, tous, que canes, be, frégi. Oh, l'ouveni, mi pugne la velano. Mai fene di un osti con su fulu. Vien più l'usile est la tramontana, fan de rabani beizume d'un coup. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. C'è qualcosa di noi che dà fastidio. Ma smetta di pensare che chi riesce a dare fission, fai periodo l'altra protocolla che dà fission. Mercati mi cammina, mi cammina dai idioton. Nel 2005. Ma il sanitario è nudo nella direzione, tutta la strada mi cammina, ripasso. Bello. Se io fossi stato nel 1976, qui, o nel 1966, qui. Nel 2005. Qui, o nel 1956, qui, avrei detto, non mi importa. Sabato! Al centro vi rimane tenero e morbido. Oh no! Oh mio Dio. È proprio brava, lo sa? In che cosa? A recitare la gallinella meccanica? E dal... alla... che è stata, come dire, dalla questo momento. E direi, iniziamo proprio andando a, come dire, entrando nella nuvola affrontando una prima quella del, come dire, no? E dal... alla... che è stata, come dire, dalla questo momento. Momento, Alessandra, allora, tutto sommato, e Antonella, è stato introdotto. Bello. Ah sì, continuamente. Guarda Frank, è incredibile. Quanto vorresti per questo? Te lo do a 200. Ah, che ne dici di 100? Al. Vado a prendersela di nuovo. Facciamo 150? Guarda Frank, è incredibile. Eccolo qui. Funziona. Funziona. Funziona, va bene 150. È andata. Grazie. Va bene 200? Lei non andrà da nessuna parte, solo che non andrebbe tanto lontano. Se io fossi stato... Quanto è? 490. Per? 300, 600, 1200. Giornata ancora difficile. Bentornati. Queste gambe di ferro dovevo comprarle, sì. Lei invece è una donna che... Guardi che non ce l'ho io. Mi sembrava bello. Perché, non lo è? Sì. Bello. Già finito? Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Don't break. Slash your buckles. Motherfucker knows you. Io sono Danilo De Summa e sto ascoltando Coxo Spaziale. What if you and I were meant to be together? I've been breaking my heart for the past 10 years, and it looks good, and it feels good too. I've been breaking my heart for the past 10 years, and it looks good, and it feels good. Don't worry, the world worst is there to comfort you. Don't worry, the worst is there to comfort you. What if I just upped and called you, told you that I was thinking of you? What if you were too busy, would you take the time? I've been breaking my heart for the past 10 years, and it looks good, and it feels good too. I've been breaking my heart for the past 10 years, and it looks good, and it feels good. Don't worry, the worst is there to comfort you. Don't worry, the worst is there to comfort you. Don't worry, the worst is always there to comfort you. Don't worry, the worst is always there to comfort you. Sono Maggiore, sto ascoltando Coxo Spaziale. Fammi sentire beatbox. Sono ancora alle prime armi. Pizza che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha. Ma andrei avanti tutto il giorno. Pizza che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'è. È tutto sterile ed asettico dentro a questo imballaggio plastico, dove le bombole d'ossigeno sono razionate più del merito. Non basta un bel discorso per ritenerti assolto, non basta un documento per assumere un'identità. È tutto stabile e meccanico dentro a questo ingranaggio cosmico, che lo ritrovo tra le costole a controllare ogni mio battito. Non trovo un percorso che mi stia bene addosso, ed in realtà io non lo so se ne ho davvero bisogno. Me l'hai messo solamente tu. Intro, dentro, verso giusto posto. Ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto. Intro, verso, così mi riconosco in me, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare a te. Sono rinchiusa dentro il cellophane con le mie valvole che scoppiano, e la pressione tesa al massimo comprime il mio pensiero critico. Non serve proprio a niente giocare sotto banco, ma non sei ancora stanco di dover svendere la tua integrità. Intro, dentro, verso giusto posto. Ma quando ti ricapita di stare zitto e smetterla di prendere opinioni in affitto. Intro, verso, così mi riconosco in me, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare, senza doverlo dimostrare. Senza doverlo dimostrare a te. Ed eccoci qua, il nostro fortunatissimo coxo spaziale di un fortunatissimo venerdì 17 è finito. Vi salutiamo come al solito con le parole del nostro direttore, e salutiamo anche la nostra Fedra, che chissà che terra straniera stia pestando, chi lo sa. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, ci risentiamo venerdì prossimo come al solito alle 8 di sera di venerdì, come al solito dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ciao e buon weekend. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Monday's blue, Tuesday's gray, and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Throwing at your friend, just smile at the sound. Sleek as a sheet spinning. Instead, it's Friday, I'm in love.